Allora, proseguiamo appunto il capitolo 18 del Kitzur Shulchan Aruch sulle halachot, sulle norme che regolano la Amidah, il modo di fare la Amidah. Qui oggi impareremo una halachah che credo non molti conoscono, ed è qui al Seif Zain, al brano numero 7. C'è scritto Lo Yismoch Atzmo al Shum Davar. Nel momento in cui una persona fa la Amidah, non si deve, abbiamo detto prima, deve stare in piedi, e questo stare in piedi come è definito? Adesso lo definisce. Lo yismoch al shum davar, cioè non si appoggi la persona a nulla durante la Amidah, neppure un minimo sostegno, afilu semicha kol dehu, cioè un minimo sostegno. Che vuol dire? Vuol dire se hai un tavolo o un banco davanti o un palo vicino, non ti devi appoggiare a quel palo, il banco, il tavolo che sia, o la sedia che hai, quello che sia, durante l'Amidah. Cioè stare in piedi vuol dire stare in piedi che il peso del proprio corpo sia sostenuto dalle proprie gambe e non con un aiuto di un appoggio, anche se fosse un appoggio a lato, come magari appoggiandosi a un muro che sta vicino, eccetera. Perché questo non si chiama più halachicamente Amidah. Stare veramente in piedi, ok? Ora l'Alaha aggiunge subito e dice: Veim hu cholek tzat, se la persona sta un po' male, quindi non è che deve essere malato gravemente, ma anche se sta un po' male e non può stare in piedi o stare bene per stare in piedi, allora yachol lehitpallel. Può pregare non solamente appoggiandosi ad un altro supporto, ma addirittura a filu yoshev, anche da seduto, la Amidah stiamo dicendo, o shochev, o addirittura, se non può stare neanche seduto, anche sdraiato può stare nel caso in cui si sente male, può fare la Amidah anche da seduto o da sdraiato, v'hu sheyachol lechaven dato, purché abbia la possibilità di concentrarsi su quanto sta dicendo. Vuol dire, se non ha la possibilità di concentrazione, anche se è sdraiato o seduto, allora non fa la Amidah. Scusate, non può subito, giusto per chiarire, ma Sì. vale la regola dello Shema qui? Qual è la Che regola dello Shema? sdraiato che devi stare di lato? O stai Sì, sdraiato? sempre meglio sdraiato. Quando parliamo sdraiato si intende sempre di Sotto un lato, lato. ok, Sì. grazie. Ve'im i efsharlo leitpallel befiv. Se invece ha un altro tipo di problema che fa sì che non può pronunciare le parole della tefilah con la bocca, qualsiasi tipo di motivo che può essere, comunque mikol makom yeharher belibbo. Comunque mediti sul contenuto delle tefilot nella sua mente, in cuor proprio, cioè la persona che è impossibilitata a pronunciare le parole della tefilah, almeno le pronunci, tra virgolette, nel suo Mentalmente. pensiero, mentalmente. Ok? Quindi abbiamo imparato qui una halakha importante, che è quella che ci insegna che l'appoggio fa sì che non sia considerato che stiamo in piedi. E quindi questa è una cosa molto comune, che quando si dice bisogna stare in piedi, vuol dire in piedi senza appoggi. Ora impariamo un'altra halakha molto pratica, al brano numero 8, Seif Chet. Lo yochaz biyado bishe'at tefilat Shemoneh Esrei. La persona non tenga in mano durante la tefilah della Amidah, rak hasidur o amachzor im tzarichlo. Se sta pregando dal libro di cui sta leggendo, solo quello deve tenere in mano e nessuna altra cosa. Inoltre, si dà un consiglio che, come vedrete adesso, è un consiglio rivolto più a chi usa dei libri, che oggi poco si usano questi libri. Una volta bisognava girare le pagine durante la tefilah, perché magari stampavano l'Amidah una volta sola, quindi anche se facevi Minchah, poi dovevi tornare indietro a Shacharit per cercare l'Amidah, o Arvit, per esempio. No? Allora qui dà un consiglio e dice: è bene avere segnate le pagine da prima per non dover star lì a girare le pagine durante la tefilà. Noi oggi la maggior parte dei libri sono, ripetono tutta la tefilà e te la danno tutta in ordine, in modo tale che non devi andare a cercare, devi solo cercare inizialmente la prima pagina e poi vai. Però era molto comune, ancora oggi esistono alcune edizioni che bisogna un po' girare di qua e girare di là. Quindi, v'yesh lo lirshom techila, la persona dovrebbe prima segnare et hamekomot sh'utzarich litpalel, i luoghi, cioè le pagine del libro che userà per la sua tefilah, Bassidur uba Machzor, nel libro di tefilah, shelo yitzarech lechapes, per far sì che non dovrà poi cercare, beemza tefilato, nel corso, in mezzo alla sua tefilah. E questa è una norma. Quindi cosa ci sta dicendo questa norma? Che non si tiene niente in mano durante la tefilah, a parte il libro della tefilah. Perché? Perché se tu tieni un'altra cosa in mano, bravissimo, costituisce questa una distrazione, una preoccupazione, preoccupazione. Allora molti si sono chiesti negli ultimi tempi se è permesso tenere in mano il telefono cellulare. Perché molti anche hanno la possibilità di pregare leggendo dal smartphone, perché ci sono le applicazioni in cui c'è il Sidur o i Teilim, eccetera. E la domanda è se è permesso, perché se tieni in mano una cosa preziosa durante la tefilà, sei anche preoccupato che la cosa non si rovini, non cade, eccetera. Allora, ci sono risposte alachiche dei maestri odierni che affrontano questa domanda. Possiamo dire che la cosa non è vietata, però ci sono delle condizioni che dipendono da diversi fattori. Un fattore, che forse è quello meno incisivo ormai, è quello della Marit Ain. Marit Ain vuol dire quello che sembra che stai facendo anche se non lo stai facendo. Vuol dire, potrebbe sembrare, e io entro in un tempio, vedo che tutti stanno pregando con i libri e uno sta pregando, uno sta lì con un dispositivo elettronico in mano, dico: ah, questo sta perdendo tempo, perché non sta pregando come tutti? Sta giocando. Sta Adesso giocando. Volta mi sono incavolato. Sta giocando qualche gioco sul telefonino. Dovrebbe invece pregare come tutti. Con un cellulare stava alla mezza alla mia. Allora, se quella persona sta pregando, non sta giocando, però sembra che sta giocando, già questo è un problema. Però dico, questo è un problema forse minore oggigiorno, perché ormai è molto diffuso che la gente, quando, soprattutto per Mincha Arvit, tira fuori il cellulare e inizia a pregare, o Birkat Amazon, eccetera. Quindi è una cosa più diffusa ed è meno problematico dal punto di vista del maritime. Però ci sono altre cose da prendere in considerazione, e queste sono la distrazione che può avvenire dal dispositivo elettronico, anche se uno sta pregando. Vuol dire, se può ricevere telefonate, proprio nel senso più semplice possibile, può ricevere messaggi, eccetera, allora va spenta quella possibilità, quella modalità, per fare tefilà senza distrazioni, come diventa, diciamo così, quasi come un libro vero, dove il libro non ti manda messaggi e non... Bloccarlo nelle altre funzioni? Sì, bloccare e non stare... Sì, uno può mettere uso aereo, quello che sia, per evitare questo problema. Che dici, William? Io non sono d'accordo. Io sono la funzione? Normale, siete un'altra generazione. Che silenzia tutto il telefono. Non so, è sbagliato. Voi, io penso come te. Sono generazione. Tu devi leggere il libro. Materiale, no? Ma adesso i libri sono tutti. Quindi diciamo che. Ok, signori, solo per ricapitolare, come tante cose che la tecnologia moderna ci offre, dobbiamo sapere usarle in maniera giusta. E siamo adulti responsabili, però chiaramente ognuno sa dentro di sé se riesce a fare in una maniera o in un'altra. Non è vietato per la halakha usare un cellulare per la tefilah, perché ormai La maggior parte dei maestri dicono che può fungere da strumento per la tefilà e non per distrazione, però ovviamente ognuno sa come deve agire a riguardo. Ovviamente di Shabbat non si può comunque. Ora si aggiunge un'altra halakha ed è questa. Lo yiye davar chotzetz beino leven hakir. Niente deve costituire una separazione tra sé e il muro. Vediamo, aspettate un attimo. Poiché è scritto, Shenemar, è detto, Vayasev Chizkia panave lakir vaitfalel. Si descrive una tefilà profonda, sentita, che fece il re Chizkiau. E lui si voltò verso, buona giornata, si voltò verso la porta e pregò. Non verso la porta, scusate, verso il muro, la parete. Ora, cosa vuol dire una chazitza? Cosa vuol dire una separazione? Ha una definizione questa separazione. E cosa è? Una separazione è lo mikre chazitza, non si chiama una separazione se non è la davar shegavoa sarat fachim verachav arbaat fachim, cioè una cosa che è alta almeno 10 tefachim e larga almeno 4, circa 80 di altezza di centimetri e circa 30, poco più di 30 centimetri di larghezza, come minimo. Quindi un oggetto più piccolo di questo non è considerata una separazione. Aval davar katan, qualcosa minore di questa questa dimensione qui, la hashev efsek, non è considerata una separazione. Inoltre, attendere, afilu davar gadol, anche un oggetto grande, se è fisso, come una tevà, o uno scaffale, un qualcosa che è fisso, imu davar kavua, se è fisso che gon aron vetevà, lo hashev efsek, un armadio o un cassettone, non è considerato come chazitza, separazione. Ve adam nami, anche un uomo che sta davanti a te, non è considerato una separazione. E no chotzetz. Ok? Allora, non è necessario mettersi davanti al muro. Perché in un tempio, non tutte le 150.000 persone che stanno al tempio possono stare tutte davanti al muro. Qualcuno deve stare pure in mezzo nell'area. Allora, per questo lui spiega, un uomo che sta davanti a te non costituisce una chazitza. Una sedia che sta davanti a te non costituisce una chazitza, una cosa fissa come la tevà non costituisce una chazitza, è solo una costruzione vera e propria che ha quelle dimensioni che abbiamo detto, come un muretto o qualcosa di grande che non è fisso, che non dovrebbe stare lì, allora quello è considerata una separazione. Diciamo che in pratica si prega normalmente quando si sta al tempio e quando si sta a casa, è anche bene cercare di andare proprio davanti alla parete, perché così ci sono meno distrazioni, non si va davanti a una finestra dove si possono vedere cose, eccetera, o davanti uno screen, un display, uno schermo, cosa che riflette. Scusa solo un secondo. Poi aggiunge anche una cosa molto importante sempre su questo, ubisheat adhak, in un momento di difficoltà, per difficoltà si intende non riesci a trovare la postazione ideale per pregare, ok, come luogo, en leakpid, in un momento di questo tipo di difficoltà non occorre essere troppo formali, non occorre andare lì a impazzire per cercare un altro luogo, che vance soghere in a, visto che la persona o chiude gli occhi, o mit paler mitocha sidur, oppure legge dal libro, Shelotit batel kavanato, e in quella maniera assicura di non perdere la sua kavanah, di non distrarsi troppo. Sì. A casa hai visto, io c'ho l'IGO, però si muove. È più grande delle dimensioni che tu hai detto adesso. Ma c'è più alto di 80. È 40-50 centimetri di larghezza. Allora non rientra. Ah, 40-50. Supera. È un po' più stretto di questo. Però è fisso. Cioè rotelle. Mettilo fisso. Non girare durante la tefila. No, la tefila non si muove. Non si muove durante la tefila. Mettilo però lì. Le G è fatto per quello. Non è considerata una distrazione. Un concetto fisso perché deve stare fermo. Sì. E poi aggiunge Vehen lo yitpallel keneged eize tziur. Io ho fatto l'esempio dello schermo, però è chiaro che è la stessa cosa quello che dice qui, non pregare davanti a un'immagine, una fotografia, un bel dipinto, un bel pezzo di arte. Vim yikrelo litpallel keneged beged o kotel metsuyar, se gli capita di dover pregare davanti a un tessuto bello o una parete decorata, si chiude gli occhi o si guarda nel sidur, yitpallel be yisgorenav. Però a questo si aggiunge uconeged mare assur, se invece ci troviamo di fronte a un'immagine vietato, un vietata, che vuol dire un'immagine vietata? Abbiamo capito chi è. Chi è? Qualcosa che non è modesto o qualcosa di questo tipo, allora quello è vietato pregarci davanti anche con gli occhi chiusi. Affilo Beinaim Skurot. Scusa, interrompo, davanti allo specchio si può pregare. Aspetta un secondo solo. Solo un secondo. No, ma che stai scherzando? No, perché... È strano che tuo fratello non ha tradotto questa riga, forse si è dimenticato. Andiamo avanti. Immagine brutte, no, no. Dipende se... Ah, tu... Scusate, ho tradotto male. Ukneged mara, davanti a uno specchio. Ecco. Ho detto mare assur. No, invece mara, davanti a uno specchio. Che non ho guardato i puntini. Davanti a uno specchio non si può pregare anche a occhi chiusi. Vedi? Afilo benaim skurot. Sì, pregavo perché c'ho tutta una parete di specchi al salone. Proseguiamo. Signori. Lo yitpallel be makom parutz, è bene non pregare in un luogo aperto, come in un campo aperto, ok? Mipnei shekeshehu be makom tzniut, quando è in un luogo chiuso, raccolto, eccetera, allora c'è più timore, c'è più, più raccoglimento anche dentro la persona stessa. Chala alav eimata melech, ve libon nishbar ve nichna, il suo cuore può essere spezzato e umile davanti al Signore, aprirsi davanti al Signore. Però vim hu baderech, se la persona si trova in viaggio, per strada, mutarlo litpalel basadeli, è permesso, in caso che ne è impossibilitato a fare diversamente, pregare nel campo aperto, ma anche lì, se ha la possibilità, litpalel ben ailanot, preghi tra gli alberi, se è un luogo alberato. Oggi è meno problematico, perché uno può entrare in una stazione, in una... come si chiama? Autogrill o una cosa simile, e può pregare più tranquillamente in un angolo. Se c'è un posto che non è chiuso ma rimedia guardandosi intorno a un posto coperto solo sopra? Sì, già è meglio, già è meglio, sì sì, assolutamente. Scusa un attimo, il... No. Chiude gli occhi non serve solo se si è davanti a immagini proibite. In altri no, casi... No, no, no, davanti a uno specchio... A specchio e immagini proibite. No, immagini proibite no, l'ho inventato no, io. No, no. Ah. Marà, uno specchio. Esatto. Uno specchio non serve... No, ovviamente non bisogna andare davanti a immagini proibite, certo, però non ne parlava qui. Chiudere gli occhi se si è davanti a un'immagine... Sì, sì. Qualsiasi, o un bel tessuto o qualcosa, allora normalmente non bisognerebbe pregare davanti a un'immagine. Se l'immagine è presente, non hai modo di evitare, chiudi gli occhi o comunque guarda nel libro. Sì, sì, a meno che non sia lo specchio in quel caso. Davanti allo specchio c'è scritto anche con gli occhi chiusi non si può. Scusa, posso fare una... Oui. Dica. Adesso parliamo della vista. Mm-hmm. Poi il disturbo delle preghiere sono i rumori. Anche? Che quando si mettono a chiacchierare attorno a te... Quello è assolutamente vietato, parlare durante... Chi ha finito la midà si mette a chiacchierare con l'altro e là e quello sta continua a pregare. Io ogni Shabbat lotto qua, dico... Noi no. Vero, ma facciamo botte a qualcuno prima o poi. È ragionissimo. Che cosa? È assolutamente vero e studieremo anche qui... delle halakhot che riguardano il non disturbare le persone che stanno facendo la midah. Dimmi, Leone. Nella midah si possono chiudere gli occhi a prescindere? A prescindere di? Se ti va, dalle immagini, dagli specchi. Sì. Come leggi, se, se uno conosce le parole a memoria, ecco, e legge da memoria ed è sicuro che non sbaglia, allora sì. A volte c'è, dipende dalla persona. Ci sono persone che il fatto di chiudere gli occhi aiuta per loro la concentrazione, invece ci sono altre che il fatto di leggere le parole sul libro aiuta la concentrazione. Quindi dipende di caso in caso, può darsi anche la persona stessa, può cambiare da momento a momento. Quindi è bene comunque avere il libro disponibile, magari uno si confonde un attimino, apre gli occhi se vuole, se preferisce pregare occhi chiusi. Oggi non finisci più. Dimmi. Dovendo scegliere a precedenza pregare davanti a un muro o pregare verso est? Allora, questo lo vedremo tra qualche minuto. Okay. Brano numero 9. Seif Tet. Il protocollo, forse diremo delle cose che sono ovvie, evidenti, però fanno parte dell'Halakha. Lo yegahek ve lo yefahek. Non si deve ruttare durante la preghiera né sbadigliare. Il termine che si usa, gihuk, yegahek, che abbiamo detto, lui spiega il termine, sarebbe l'aria, come cito qui, dal gihuk sarebbe l'aria che talora per sazietà proviene dal corpo ed esce dalla bocca, quindi il rutto, no? Insieme all'odore di... Sì. Il primo senso è il rutto. Altri sostengono che il termine indica lo stiracchiare il corpo e le braccia per la stanchezza. Uno sta in mezzo a farti bravo, non è rispetto, non è normale. Immagina se parli con qualcuno o qualcuno di importante, allora tefilah, stai davanti ad HaKadosh Baruch Hu. Il secondo termine è pihuk, lo yefahek, abbiamo detto, corrisponde allo sbadiglio, ok? Però sbadiglio se parla. Come fa a fermarlo? Ascoltate, signori, signori, per favore, solo un secondo. Ve'im nitzarech lekach mechamat onzo, se la persona non riesce a contenerlo, yaniach yadav al piv, semplicemente copra la bocca con la mano, shelotera eptichato, per non dimostrare la bocca aperta nello sbadiglio durante la tefilà. Un po' di locazione. Ho detto che saranno cose ovvie, però fa parte della halakha. Vechen asur lo larok, è anche vietato sputare durante la tefilà. Se la persona deve fare qualcosa fuori uscire dal suo dalla bocca. Vin balo rock le toch pivu mitzterbo, magari è raffreddato e gli viene qualcosa, eccetera, dalla gola e gli rende, lo mette in difficoltà, acenitrad mitfilato, lo disturba a pregare, allora mavlio le toch mitpachato beged, che voi direte è ovvio, però forse non in ogni cultura è così ovvio, sì, è vero, di prendere un fazzoletto e fare quello che deve fare. Vin mauslo, se lo trova ripugnante usare, perché beged vuol dire il suo tessuto, il suo abito, allora yateli smolovi a roklachorav, lo fa, toglie quello dalla bocca, quello che deve togliere, verso dietro di sé. Vimi efshar lachorav a rokli smolovi, efshar smolovi a rokli mino, meglio verso la sinistra, se non può allora verso la destra. Se la persona è disturbata da un insetto un'altra tefilà, oppure peggio da un pidocchio, una pulce, nel caso in cui im kinao katsto, se una pulce lo sta pungendo, e mashmesh biv gadav la sirash lotit bater kavanato, usa il vestito per toglierla in modo da non perdere la concentrazione. Però, perché si dice col vestito? Perché è meglio non toccare con la mano l'insetto durante la tefilà. Avaloye sirà beyado. Ok? Se no poi deve lavare un po' le mani di nuovo. Im nishmata talit mealav. Ora, se durante la tefilà il talet cade, scivola dalle spalle. Stiamo parlando durante la Amidah. Tutto questo che stiamo dicendo, stiamo parlando della Amidah. Quindi il momento in cui dobbiamo stare lì, in piedi, dritti, piedi uniti, eccetera. Allora, se durante la Amidah il Talled inizia a scivolare giù dalle spalle, Yachole Hachaziro, è permesso rimetterlo su a posto, anche a Filu Nafal Rubò, anche se ne è caduta la maggior parte del Talled, è già quasi scivolata via. Se però Avalim Nafal Kulò, se è completamente caduto per terra, è finito per terra, e in ora Shaili Tatefbo non ha il permesso di ammantarsi nuovamente nel Talled, perché questo sarebbe considerata una interruzione, Mishum de Have Hefsek, perché l'atto di ammantarsi nel Talled è un atto di mitzvah, è un atto, non è una cosa passiva, magari ritiri sul Talled che è quasi caduto, però rimetterlo e riammantarsi è una cosa che è un Hefsek, è un'interruzione durante l'Amidah, quindi conclude l'Amidah e poi rimette il Talled. Vim nafal sefer lefanav alaretz. Se dal banco davanti al quale stai pregando cade un libro per terra mentre preghi l'amida, un mitoch zem mitbalbel kavanato, e la presenza di questo libro che cade per terra davanti a te durante l'amida ti fa perdere la tua concentrazione, disturba, ti distrae, allora mutar la agbia ben bracha li bracha. Ti è permesso alzare questo libro tra una bracha e l'altra dell'amida. Quindi hai concluso, per esempio, Bruchat Hashem Shomea Tefilah, prima di iniziare la prossima Berachah lo alzi, ma non in mezzo alla Berachah. Kol advarim asurim betoch tefilat Shemoneh Esreh. Ora una regola generale. Tutto ciò che abbiamo detto che sarebbe vietato durante la Tefilah dell'Amidah, è vietato fino a quale punto dell'Amidah? Asurim ad leachar sheifsa pesiot, fino a dopo che ha preso i tre passi indietro. Perché dice questo? Perché per altre questioni che abbiamo già visto nel capitolo 14, l'Amidah potrebbe essere conclusa per alcuni versi dal momento che arriviamo a Elokai Netzor, quell'ultimo brano che è dopo Ameverechet Amo Yisrael Bashalom, oppure ancora di più quando abbiamo detto Yiyule Razon Imrefi Vegion Libil Faneha Hashem Tzuri Vegoali, per alcuni versi è già conclusa, nel senso che se sentiamo una cosa a cui bisogna rispondere con sì, il pubblico come Kedushah, già rispondiamo. Però per queste altre cose di interruzione non si interrompe, sono sempre valide finché non si conclude proprio completamente, cioè si prendono i tre passi indietro. Ok? Fino a qui è chiaro? Sì. Molto bene. Alaha numero 10, brano Seif Yud. Seif Yud dice così. Tzarich la'amod befanav lezad Eretz Israel. La persona durante la Midah deve stare in piedi e rivolto verso la terra di Israel. Sheneemar, come detto nel libro di Melachim, veit palelu elecha derech arzam. Pregano a te passando in direzione del loro paese. Inoltre, non è solamente verso Eretz Israel in generale, ma anche Vichaven, Keneged, Gam Keneged Yerushalayim, o Keneged Hamikdash, o Keneged Bet Kodshei HaKodashim. In particolare, rivolgersi verso Yerushalayim, il Bet Hamikdash e il Kodesh HaKodashim. Vuol dire a Kotel. Il Kodesh HaKodashim non è il Kotel, è dietro il Kotel, è no, dentro, voglio dire, sul monte. Che è rimasto. Sì. È il Kotel. Quindi dipende dalla tua posizione, in quale direzione devi pregare. Perché se stai dentro Eretz Israel, preghi nella direzione di Yerushalayim. Se stai dentro Yerushalayim, preghi nella direzione del Bet HaMikdash. Voglio precisare, non è il Kotel. Il Kotel è un muro di cinta del monte del Tempio, Har HaBayit. Bet HaMikdash è all'interno, il luogo dove era il Bet HaMikdash. Però il Kodesh HaKodashim è un luogo specifico, che è rimasto, quindi non se stai al Kotel devi pregare verso il Kotel, perché dietro al Kotel c'era il Kodesh HaKodashim, ma se stai dall'altra parte del Kotel forse devi pregare nella direzione del Kodesh HaKodeshim, certo, che non è dritto, la parte centrale del Kotel dove, dove c'è tutta la gente, non è quella che è direttamente davanti quella al Kodesh HaKodeshim. Se stai ai lati, verso su, certo, dipende dove stai. No, no, sto dicendo anche quando stai a Gerusalemme, tu stai pregando, questo è il Kotel aperto, poi si va sotto. Quando si va sotto è quello il luogo che è davanti al Kodesh HaKodeshim. Quindi tu stai davanti al Kotel e stai pregando così, stai pregando davanti a un luogo che dentro c'era solo il Monte del Tempio, ma non c'era il Bet HaMikdash. Il Bet HaMikdash è rimosso. Allora puoi pregare un po' verso sinistra. Scusa, quando stai al Kotel verso il muro è giusto? No? Sì, è giusto, non è sbagliato, ma in realtà il Kodesh HaKodeshim è più più rivolto verso di là. Allora si stai pregando per dire, dipende dalla tua posizione. Sì. Dipende dalla tua posizione, lì, in base a tempio lì dove si entra, sì, ma ancora più sotto, ci stanno i tunnel del Kotel, si chiama. Quindi, sotto Gerusalemme, prega davanti al muro, sbaglio. No, non è che sbaglia, a parte che stiamo parlando dell'Amidah, non di ogni cosa che fai davanti al Kotel. L'Amidah va in direzione del Kodesh HaKodeshim. Se stai lì davanti, puoi indirizzarti più in direzione del Kodesh HaKodeshim. Se stai qui, fai in direzione generale di Eretz Israel. Sì. Sai, in Eretz Israel fa in direzione generale di Gerusalemme e così via. Okay. Vabbè. Very good. E quindi scrive qui l'autore, Vlachen anu bim medinotenu, nei nostri paesi, che viviamo bemar avash Eretz Israel, viviamo a ovest rispetto a Eretz Israel, srichim la'amod befanim lezad mizrach, bisogna rivolgersi verso est. Però anche qui precisa, non è l'ol mizrach mamash, non è proprio est dritto. E la Lezad che era il Mizrahi Dromit, lui era in Ungheria, no? Allora lui scrive, è più sud-est. Est sud-est. Anche per noi è più sud-est che est proprio, no? Mizrahi Dromit. Fa Yoshvim, Bezafon, Celeritz Israel, Pnehem Lederom. Quelli che stanno nella Galilea, nel nord di Eretz Israel, pregano verso sud. A Yoshvim Ben Mizrah, quelli che stanno all'est, pregano verso ovest, Pnehem Lemarav. Fa Yoshvim Badarom, Pnehem Lezafon, quelli che stanno al sud, pregano verso nord. Nimza, e quindi risulta che col Israel, tutto il popolo di Israel, ponim bitfilotehem, si rivolgono con le loro tefilot, le makom echad, verso lo stesso luogo, hainu, ovvero nege di Yerushalayim, verso Yerushalayim, uvet kocea kodashim, e verso il santo dei santi, shesham shaar hashamayim, che quello è considerato il luogo della porta del cielo, Shekol hatefilot olot derech sham, attraverso il quale passano e salgono tutte le tefilot, tutte le preghiere. Velachen, e per questo motivo, questa è già una cosa interessante a livello allusivo, Nikra Bet HaMikdash Talpiyot. Il Bet HaMikdash si chiama Talpiyot. Talpiyot, come c'è scritto nel Shir HaShirim, che Migdal David Zavarech banui le Talpiyot. Il tuo collo è come la torre di David costruita a Talpiot. Cosa vuol dire Talpiot? Tal è la collina, come Tel, Tel Aviv, collina, Tel, Tal. Talpiot, la collina, Shekol Piot Ponim Elav, che tutte le bocche, tutte le preghiere si rivolgono verso quella collina. Ecco perché il Bet HaMikdash si chiama, a livello allusivo, Talpiot. E tutte le scuole di Hasidi che si chiamano Talpiot. Ah, come sì? Si può tradurre Talpiot? Non sapevo. Scusa, non ho capito. Di questi Talpiot. Talpiot come si può tradurre? Scusa, non ho capito. La collina delle bocche. Ah, okay. Talpiot. Okay. Quindi che vuol dire? Il luogo verso il quale tutte le bocche, tutte le tefilot sono rivolte. Ravi, c'è una domanda che non c'è scritto qua. Dimmi. Quando uno sta nell'aereo che fa? Quando sta nell'aereo, pilota, abbiamo gira. Detto... Fai girare il pilota. No, io poi te lo dico che mi è capitato io. Mi è capitato con... È scritto, solo che non siamo ancora arrivati, un secondo solo. Io sono salito sull'aereo della... In ebraico si dice l'ora inu e in ora aya. Se non hai visto, non è una prova che non esiste. Certo. Non hai visto ancora, però forse esiste. Ora, l'alaha dice, l'alaha dice così. Im mitpallel bemakom, se prega in un luogo, sheino yachol lechaven keneged Eretz Israel, che dove non ha possibilità di indirizzarsi verso Eretz Israel, esattamente, allora yechaven libo leaviv shebashamayim, deve indirizzare il proprio cuore, la propria kavanah, la propria intenzione e concentrazione verso il nostro Padre in cielo. Quindi la priorità è quella. Shenemar, Veit, Pallelu e l'Hashem. Esatto. Sì, comunque la nostra preghiera è verso Hashem. Certo. Ok? Se la persona potrebbe mettersi nella direzione giusta, però per sbaglio, per esempio, dovrebbe pregare come noi verso est, e invece si è messo per sbaglio verso ovest o verso nord, ok? Nord o sud. Venizkar be'emza shmones reshe ino met karaui. E durante l'Amidà si è reso conto, si è ricordato che non è indirizzato nella direzione giusta. Allora sarebbe per la persona, forse per istinto, si girerebbe. E la halakha dice loya akor raglav. Non si muova, non sposti i piedi, quindi non si muove fisicamente, si gira verso la direzione giusta, perché ormai sta facendo l'Amidà e non ci si muove durante l'Amidà. Ela yate panav le misrach. Ma se lui è rivolto verso nord o verso sud, può girare il suo volto verso est. Però se è impossibile perché è rivolto verso ovest, se è impossibilitato per un altro motivo, oppure sta verso ovest e quindi non è che può girare la testa verso dietro, allora comunque non si muovi. Yigmor tefila toka, conclude la sua tefila così. In altre parole, più importante è fare la tefila nel decoro giusto, è la priorità rispetto alla direzione. Come quello che non può indirizzarsi, deve indirizzare il proprio cuore, la concentrazione verso Kodesh HaKodeshim, lo yakor raglav, non muova i piedi. Chen umitpallel bemakom sheyesh tzurot bamizrach, se prega in un luogo in cui sulla parte est ci sono delle immagini di Avodah Zarah, o di culto estraneo che sia, allora lì non prega verso l'est. Itpallel tzad acher af sheino mizrach. Di nuovo c'è la priorità di non pregare verso quella direzione, perché quello sarebbe molto peggio, pregare davanti a una cosa del genere. Altre domande?